Eccoci qua, cari amici, cari ascoltatori, sono le 14, 1 minuto 55 secondi in questo momento. Dunque, le notizie dall'Europa ci dicono innanzitutto che ci sono novità, ancora si potrebbe dire, sul fronte dei conti greci. La Grecia ha infatti presentato allo Euro Working Group di oggi una nuova lista di riforme, più dettagliata delle precedenti, che prevede interventi per 6 miliardi di euro. Così il Financial Times, che anticipa questa cifra, questa iniziativa, nella sua edizione online. Attualmente, nello scenario attuale, il fabbisogno finanziario della Grecia per il 2015 è stimato in 19 miliardi di euro. Questo dunque il quadro. Naturalmente la trattativa andrebbe dunque avanti in maniera serrata. Il testo greco presentato nell'incontro di Bruxelles è composto da 26 pagine. I ricavi provengono soprattutto da lotta all'evasione e dalla lotta naturalmente alla corruzione. E poi un caso che, come dire, non è nuovo, ma che sembra davvero arrivato a un momento decisivo. Mi riferisco alla ipotesi di apertura di indagine dell'antitrust europea nei confronti di Google, il gigante americano. Allora, sentiamo dalla regia se possiamo mandare il servizio. Ci racconta tutto, per cominciare, Valeria De Rosa. Sentiamo. La scampata negli Stati Uniti, ma non è detto che ci riesca anche in Europa. Dopo 5 anni di approfondimenti, l'antitrust di Bruxelles sarebbe pronta ad aprire una procedura nei confronti di Google. Lo scrive il Wall Street Journal, che ricorda come appunto sulla posizione del motore di ricerca e dei suoi servizi fosse intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Obama. Alla fine, oltreoceano, tutto si è risolto in un nulla di fatto. La Commissione europea, invece, si legge sul quotidiano americano, avrebbe chiesto alle aziende che hanno denunciato il colosso il permesso di pubblicare alcune informazioni inizialmente depositate solo in via confidenziale, segno evidente dell'imminente apertura della procedura, che sarebbe addirittura più imponente di quella intentata nei confronti di Microsoft. Allora l'azienda di Redmond pagò all'Unione multe per 1,7 miliardi di euro. Sotto la lente alcune pratiche potenzialmente sospette, per esempio la posizione di Google in termini di search engine, e cioè il traffico verso un dato sito, la pubblicità online e le presunte azioni secondo le quali Google avrebbe deliberatamente danneggiato la visibilità di servizi concorrenti per favorire i propri. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di nuovo cambiamo scenario. Nello Yemen, quindi nel sud della penisola arabica, la situazione resta critica. L'Europa rinnova la sua preoccupazione. L'alto rappresentante per l'Unione Europea per la politica estera, Federica Mogherini, il commissario europeo per gli aiuti umanitari, Christos Stylianides, chiedono alle parti di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale sulla protezione dei civili. Un'emergenza umanitaria nei confronti dei quali Mogherini e Stylianides si impegnano ad accrescere l'intervento umanitario, appunto, che già l'Unione Europea svolge nel sud della penisola arabica, e per questo chiedono appunto alle parti in conflitto di permettere l'accesso dei soccorsi alle zone dei combattimenti. Bene, e con questo abbiamo fatto le 14:05 e siamo alla conclusione. Naturalmente ritrovate tutti i contenuti su radio24.it e, come sempre, stasera uno spazio dedicato all'Europa all'interno di Effetto Notte. Per ora direi che è tutto da parte mia, un saluto da Gigi Donelli, e ora continuiamo con i programmi di Radio 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.